Ad alta voce, Elisabetta Piccolomini legge L'Edera di Grazia Deledda, 17ª puntata. Il prete aveva sollevato la testa e guardava la disgraziata con occhi pietosi, ma anche investigatori. Gli occhi disperati di lei, il suo viso invecchiato, la sua esile persona vibrante. Non erano gli occhi, il viso, la persona di una delinquente astuta e feroce. «Calmati, Anna», le disse sollevando la mano fasciata. «Può darsi che io mi sia ingannato. Siamo tutti soggetti all'errore. E ora sentimi. Riprendi il tuo posto e ascoltami. Paolo, come ti dissi, rimase da me una notte, nascosto così bene che i carabinieri nella loro perquisizione non potevano trovarlo. Quando si fu tranquilli si parlò, a lungo. Egli mi confidò tutto. Mi disse d'essere tornato la sera prima e di aver avuto un colloquio con te mentre il vecchio dormiva. Egli ti disse di aver trovato i denari e ti confidò i suoi progetti per l'avvenire e promise di sposarti, ma tu non l'hai creduto. Tu hai espresso il timore che egli, andandosene, ti dimenticasse. E dopo questo convegno, il vecchio morì. Non si potrebbe dunque credere che tu abbia commesso il crimine per impedire a Paolo di partire. Ma Paolo che cosa diceva? Che cosa? Ella domandò. Egli ti crede innocente, almeno lo dice. Prete Virdis, ella disse allora coprendosi gli occhi con una mano. Lei mi ha giudicato come i fanciulli giudicano le streghe, peggiore di quello che sono. Il vecchio era morto quando Paolo tornò. Ebbene sì, riprese dopo un attimo di silenzio, scoprendosi gli occhi e alzando la voce. Le dirò tutto, prete Virdis. L'ho ucciso perché credevo di salvare Paolo. E Paolo passò di fuori e non mi avvertì. E la stessa sorte che mi portò in questo paese maledetto mi costrinse a diventare quello che sono diventata. L'ho voluto io, forse? No. No, prete Virdis, io ho fatto strazio di me perché così ha voluto la sorte. Io avrei voluto essere una donna come tutte le altre, avere un padre, una madre, vivere onestamente. Perché Dio, se è vero che c'è, ha voluto altrimenti? Dio ti ha dato la ragione, Annessa. Non senti tu in questo momento che hai la ragione e che la tua sorte te la sei creata da te? Perché non hai ragionato sempre come ragioni ora? Ecco, perché credevi d'essere padrona di te stessa e di fare di te quello che volevi? Tutto ti sembrava permesso perché non avevi padrone. Ed ora, ora che ti accorgi d'essere invece schiava di quella che tu chiami la sorte, ora ti lamenti. E non ti accorgi, Anna, non ti accorgi che chi ti guida è Dio. Dio! Non lo dica, prete Virdis. Egli non avrebbe voluto la morte del vecchio. Prete Virdis cominciò a irritarsi e a sbuffare. Tu non puoi giudicare i decreti di Dio. Vuol dire che l'ora del vecchio era giunta e non spetta a noi giudicare la sua sorte. Pensa a te, Anna. La tua ora non è ancora arrivata. E non importa il modo col quale essa arriverà. Che tu muoia in un modo o nell'altro, non devi preoccupartene, pensa solo a comparire davanti al Signore con l'anima guarita da ogni male. Che devo fare? Sono pronta ad accusarmi, e la disse con slancio, e dirò tutto quello che lei vorrà. Quello che vorrò io? Che c'entro io? Tu dirai la verità, ripeto, null'altro. Ma mi crederanno? Ella ripeté, riassalita dai suoi dubbi. Non diranno che io sono stata complice soltanto. Io ho sempre fatto male quello che ho fatto, prete Virdis. Non vorrei ancora nuocere a loro. Non osava più chiamarli suoi benefattori. Il prete scosse la testa, guardava fuori con occhi tristi e pareva dicesse di no ad una persona lontana. Tu non mi hai ancora capito, Anna. La verità, ecco tutto. Bisogna dire la verità e non preoccuparsi d'altro. Sarai castigata o non lo sarai? Soffriranno ancora gli altri per causa tua? Tutto questo non importa. Importa soltanto che tu vada dritta per la tua via. Farò quello che lei mi consiglierà, ripeté Annissa, ma egli parve non sentirla. Si alzò, fece una smorfia di stanchezza e di sofferenza e continuò a guardar lontano. Adesso non si tratta solo di questo, riprese. Il maggior castigo, Annessa, devi importelo da te. Vedi, il Signore non è crudele come son crudeli gli uomini. Egli dice a colui che è caduto, sollevati e bada di non ricadere. Egli dice a te, Annessa, donna, ti ho aperto gli occhi. Ho sgombrato la tua anima dalle tenebre come all'alba sgombro il cielo dai vapori notturni. Cammina e non peccare più. Ella sospirò e giunse le mani. Non peccare più, non peccare più. Le ultime parole del prete la turbarono più che le minacce e i paragoni coi quali egli aveva infiorato il suo discorso. Non peccare più, ripeté. Ci ho pensato tanto in questi giorni, prete Virdis. Ho pensato che non voglio più peccare. Non voglio più ingannare nessuno, non voglio più far del male a nessuno. Va bene, se sarò condannata, aspetta ancora, egli disse con impazienza sollevando la mano fasciata. C'è tempo. Forse le cose andranno meglio del come pensiamo. Pensa intanto all'anima tua. Ed egli continuò a parlare, ripetendo che la vita è breve e piena di inganni e che la nostra sola felicità consiste nel credere a un'altra vita eterna, a un mondo dove tutto è vero, tutto è puro e dove la giustizia è diffusa come l'aria intorno alla terra. Ma Annessa oramai non aveva più bisogno di ascoltare sermoni. Una voce interna le mormorava parole di conforto e le indicava la via da tenere. Egli le disse: «Perché la tua presenza non provochi inutili chiacchiere? Tornerai in paese stasera, che nessuno ti veda. Verrai a casa mia e combineremo sul da farsi. Intanto io celebrerò qui la messa secondo la tua intenzione. Ho portato con me la particola». Chiamarono zio Castigo, che aveva in consegna la chiave della chiesetta, e aprirono. Il sole non era spuntato ancora, ma l'oriente brillava già tutto d'oro rosso e questa vivida luce d'aurora penetrava dal finestrino della chiesetta e indorava le pareti polverose. Tutto era umile e dolce là dentro. La Madonnina, con l'abito giallo scolorito, col suo bambino paffuto e sonnolento, pareva una piccola madre mendicante che si fosse ritirata in quell'eremo per cibarsi di ghiande e vivere coi poveri pastori della montagna. Né quadri né statue ornavano le pareti. Molti topi, invece, fuggirono davanti a zio Castigo quando egli aprì la porta. E prete Virdis, che aveva una infantile paura dei più innocui animaletti, si spaventò e parve provar più orrore per quel piccolo esercito fuggente che per i peccati di Annessa. «Non abbia timore», disse zio Castigo, «sono topi selvaggi. Si figuri, prete Virdis mio, l'altro giorno lasciai qui una bisaccia colma di pane e formaggio ed essi rosicchiarono la bisaccia, ma non toccarono né il pane né il formaggio. Si vede che non ne avevano veduto mai». Prete Virdis, tuttavia, procedé cauto e si lasciò vestire dal pastore, che trovò in fondo a una cassa posta dietro l'altare un camice e una pianeta rosicchiata appunto dai topi selvaggi. Mentre per accendere l'unico cero dell'altare zio Castigo adoprava l'acciarino e l'esca, Annessa vide il prete guardarsi intorno inquieto. «Non abbia paura», disse il pastore. «Suonerò il campanello per farli scappare». La messa cominciò. Niente di più pittoresco e comico di quel grosso ufficiante dalla pianeta bucata e del vecchio preistorico che assisteva alla messa suonando ripetutamente il campanello come per far scappare un popolo di spiriti maligni. In fondo alla chiesetta deserta, sulle cui pareti la polvere e i fili dei ragni diventavano sempre più rosei e dorati al riflesso dell'aurora, Annessa mormorava brani di preghiere dimenticate e di tanto in tanto si piegava e baciava il pavimento con passione e furore. Non erano la fede e il timor di Dio che la piegavano fino a terra e le facevano baciare la polvere con un sentimento d'amore più che di umiliazione. Tuttavia, la sua anima piangeva e clamava e la sua persona pareva contorta da una specie di furore religioso. Zio Castigus campanellava. L'unico cero sull'altare, melanconico, guardava col suo occhio d'oro, immobile. D'un tratto però la fiammella si allungò, si mosse, diventò una piccola lingua giallognola e parve dire qualche cosa al bambino sonnolento che la guardava fisso. Annessa rimase tutto il giorno nella chiesetta. Continuava a mormorare preghiere, ma pensava ad altre cose. «Mi condanneranno a 30 anni di reclusione», pensava. «Forse morrò prima di finirli. Forse mi condanneranno a 20. Quando ritornerò sarò vecchia. Che farò? Vivrò d'elemosine. Forse nella reclusione potrò lavorare, potrò accumulare qualche piccola somma. Matteo Piras, che rimase 15 anni nel reclusorio di Civitavecchia, portò a casa, quando ritornò, 400 scudi e mise su un bel negozio. E Paolo, che dirà? Che farà? Mi aiuterà? Mi rinnegherà? Faccia egli quel che crede. Io farò il mio dovere. Sarò buona, Dio mio, Dio mio». E piangeva pensando a Paolo, ma non più con lacrime di vergogna e di disperazione. Poi si proponeva di non pensare oltre a lui. Le pareva di peccare ancora ricordandolo e non voleva peccare mai più. E Gantine? Che farebbe? Che direbbe Gantine? Egli era giovane, leggero, si sarebbe presto confortato. Verso mezzogiorno zio Castigu batté alla porta. Ella uscì nel portico. Mangiò un pezzo di pane d'orzo e un po' di latte coagulato e scambiò qualche parola col pastore. «Sei ferma nel tuo proposito?» egli le domandò. «Vai giù stasera, vuoi che ti accompagni?» «No, no, non occorre, non ho paura». Egli la guardava. Ella era pallida, ma aveva ripreso la sua solita fisionomia, il suo solito sguardo, un po' beffardo, un po' ingenuo. Zio Castigu cominciava a credere di essersi ingannato, ritenendola colpevole. «Stanotte ho sognato che era venuta su, fin qui, Anna De Cherchi. Aveva sul capo un cestino pieno d'uva e una lettera in mano. Ma non era Anna De Cherchi, era invece Paolo travestito, ma travestito così bene che sembrava la vecchia. Appena mi vide si mise a ridere e mi domandò: "Dov'è Annessa? Voglio farle uno scherzo". "Uva e lacrime", disse Annessa, ma il pastore ribatté. "Però Don Paolo rideva. Buon segno. Vedi, Anna, il cuore mi dice che entro oggi riceveremo una buona notizia. Ah, se ciò fosse, Maria Santissima mia. Tutti i giorni verrei qui, mi inginocchierei su questa sacra soglia e bacerei la terra. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo". Egli si inginocchiò, baciò la terra, si fece il segno della croce. Annessa trasalì al solo pensiero che una buona notizia potesse giungere. La vita l'attraeva ancora, con tutte le sue seduzioni. E la speranza di potersi salvare era così dolce e ardente che la faceva soffrire. Rientrò nella chiesetta e si rimise in ginocchio, nell'ombra, sulla polvere. Meglio non sperare. Salvarsi significava ricadere nel peccato, dimenticare, perdersi per sempre, ed ella non voleva peccare mai più, mai più. Dio, Dio mio, aiutatemi voi. Sì, io devo ritornare nel mondo, aiutatemi voi. Non voglio più mentire, ingannare, più fare del male. Non sposerò Gantine per non ingannarlo, non sposerò Paolo, non peccherò più con lui. Non sono degna di nessuno, vivrò sola, curerò i malati, lavorerò, porterò da me sola il peso dei miei delitti. Si curvò e baciò ancora il pavimento, e nel sollevarsi gli parve di vedere un'ombra dietro il finestrino. Mi vedono. Si ritrasse, ebbe paura. L'idea della prigione, della condanna, della reclusione la dominò ancora. Ricominciò a pregare, ma con tristezza infinita. Il Dio al quale ella era ritornata nell'ora della disperazione, come il bambino ritorna in grembo alla madre che lo ha castigato, era un Dio severo, inesorabile. Egli poteva perdonare, ma non dimenticare, e domandava penitenza. Penitenza, no. Io non potrò salvarmi dalla condanna, ella pensava piangendo silenziosamente con la fronte sulla parete. Non è possibile. Si salveranno loro, e questo mi basterà. E la buona notizia sarà quella del loro scarceramento, null'altro. E le pareva di vedere Paolo nella stanzetta del piccolo carcere di Barunei. Lo vedeva piegato su se stesso, livido di umiliazione e di rabbia, pentito d'essersi dato inutilmente in mano alla giustizia umana, stupida e cieca. Egli aveva sperato d'essere rimesso in libertà dopo qualche ora, assieme coi suoi. Egli si era costituito per dimostrare la sua innocenza e non era stato creduto. E le ore passavano invano, e passavano i giorni, e forse egli non sperava più. E io sono ancora qui, sono ancora libera. Paolo mio, Paolo, Paolo mio, che dirai di me quando saprai? E donna Rachele cosa dirà? Ella piangerà e i nonni diranno: ella non aveva timor di Dio e ci ha condotti sull'orlo dell'abisso. Per colpa sua abbiamo sofferto il più grande dolore, la più grande umiliazione della nostra vita. Poi si conforteranno e dimenticheranno e la vita passerà. Io vivrò lontano, lontano, in una galera sconosciuta, e vedrò sempre davanti a me il viso orribile, il sorriso vendicativo di zio Zua. Egli solo non mi dimenticherà. Egli verrà con me, sempre, sempre. Egli lo sapeva già che si sarebbe vendicato. Egli lo sapeva. E io non sapevo niente. Sappiamo mai quello che può succedere? So io quello che accadrà domani? Dio mio Signore misericordioso, perdonatemi, ecco che vaneggio ancora, ecco che spero ancora. No, no. Ella non voleva sperare e intanto aspettava. Ogni piccolo rumore le dava un brivido. Dal finestrino penetrava la luce azzurra e chiara del meriggio. Il cielo era tutto in colore di zaffiro. Il bosco mormorava intorno alla chiesetta con un romorio lieve e sonnolento di api intorno all'alveare. Una pace infinita, una dolcezza triste riempivano il ricovero solitario di quella Madonnina selvaggia, di quel bambino languido, che parevano così tranquilli nella loro povertà, così lontani dalla donna che piangeva ai loro piedi. Verso il tramonto arrivò al solito il nipote di zio Castigo, che ogni sera portava giù in paese il prodotto del gregge. «Prete Virdis mi ha mandato a chiamare», disse, «e mi ha incaricato di dirvi che desidera parlare con voi solo stanotte. Mi ha avvertito di ripetere con voi solo». Il pastore corse da Annessa e riferì l'ambasciata. «Anna», disse con voce commossa, «credo che il mio sogno sia veri. È segno che Prete Virdis desidera che tu non ti muova. È segno che c'è qualche speranza». Ella tremava tutta. Non illudetemi, zio Castigu. Non fatemi sperare. No, no, no, non voglio. Perché non vuoi sperare? Dopo la notte viene il giorno. Prega, prega, Anna. Io corro giù in paese. Vuoi andare nella capanna? Ella però vuole restare nella chiesetta. Nella furia il pastore si dimenticò di portarle da mangiare, ma ella non sentì la fame, non si addormentò, non si mosse dal suo angolo. Vide attraverso il finestrino apparire una stella rossastra sul cielo verdognolo del crepuscolo, poi altre stelle ancora, e il bosco tacque e tutto fu silenzio, silenzio misterioso di attesa. Zio Castigu ritornò verso la mezzanotte. Quando ella sentì il suono della chiave nella toppa arrugginita, provò una strana impressione. Le parve che un essere invisibile, un fantasma che veniva dalla profondità d'un mondo ignoto, cercasse di introdursi nella chiesetta per avere un colloquio con lei e rivelarle il mistero del suo avvenire. Invece nel buio s'avanzò il vecchio pastore. Ella ne riconobbe il passo, ne riconobbe la testa selvaggia che si disegnò nera sul quadrato cenerognolo e stellato del finestrino. Ma dal modo in cui egli disse «Annessa, sai?», ella sentì subito che il vecchio pastore le avrebbe rivelato, come il fantasma d'un mondo occulto, il segreto del suo avvenire. Zio Castigu, domani saranno rimessi in libertà. L'avvocato ha detto a Prete Virtis che dalla perizia medica risulta che il vecchio è morto soffocato dal suo male e che nessuno l'ha percosso, che nessuno, tranne il Signore, l'ha fatto morire. Ella cadde in ginocchio, nelle tenebre, ma una luce ardente, simile allo splendore del sole, le rischiarava l'anima. Il Signore ha perdonato. Il Signore ha veduto il mio cuore. Ha misurato il mio errore e il mio dolore. Ha veduto che questo era più grande del mio errore. Zio Castigu sentiva nel silenzio i denti di lei battere forte. Anna, che fai ora? Vieni fuori con me? Prete Virtis ti consiglia di non muoverti finché essi non saranno rimessi in libertà. Hai sentito? Ho sentito. Ma che fai ora? Prego. Ora puoi stare tranquilla, egli disse ingenuamente. Puoi venire di là, nell'ovile. No, sto qui. Voglio pregare. Puoi pregare anche là, nella capanna. Dio ti sentirà ugualmente. E tu non hai mangiato, Pili Brunda. Nel sentirsi chiamare col suo nomignolo, ella provò un impeto di gioia. Zio Castigu non l'aveva più chiamata così durante tutti quei giorni di terrore. Tutto era dunque passato. Era possibile, non era un sogno. Per convincersene, si alzò. Dimenticò le sue preghiere, diede retta al vecchio che insisteva «Andiamo, andiamo!» Uscirono. La notte era chiara, vivida di stelle. L'orizzonte sembrava vicino, appena dietro le linee nere dei boschi e i profili delle rocce. Le pecore di zio Castigu pascolavano, nascoste fra le macchie, in fondo alla radura, e il tintinnio cadenzato dei loro campanacci pareva una musica misteriosa, quasi magica, un coro di vocine tremule sgorganti dalle pietre, dai tronchi, dai cespugli. Molte stelle filanti attraversavano il cielo biancastro e zio Castigu, al quale non sfuggiva mai nessun fenomeno celeste, disse guardando in alto: «Pare che le stelle grandi piangano stanotte. Guarda quante lacrime!» Annessa sollevò il viso. Anche lei piangeva. Ricordava la sera della festa di San Basilio, i razzi che attraversavano il cielo scolorito di là del cortile silenzioso. 15 giorni erano trascorsi. 15 giorni lunghi e terribili, come anni di peste e di carestia. Ora tutto era finito e tutto doveva ancora incominciare. «Che altro ha detto Prete Virtis? domandò seguendo a passi cauti il vecchio che camminava spedito e svelto tra i sassi e i cardi. Di star tranquilla, di non muoverti finché io vorrei ancora parlare con lui prima, ella interruppe. Poi, dopo un momento di silenzio, aggiunse piano: prima di ritornare dai miei benefattori. Ella pronunciò ancora l'usata parola, ma subito dopo ricominciò a piangere. Non erano lacrime di rancore e di rimorso, non erano più lacrime di gioia. Erano lacrime di pentimento e di speranza, che nella notte infinita della sua anima cadevano e brillavano come nella notte le stelle filanti. Elisabetta Piccolomini ha letto L'Edera di Grazia Deledda, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.